24 mattino di Alessandro Milan. Siamo qui, cari ascoltatori, le 7:19 minuti e un ben ritrovato da me. Eccomi qua. Dopo una settimana ritrovo il nostro Peter Bescapè, il nostro alpino lì con la penna nera, al di là del vetro. Eccoci allora in diretta fino alle 9. Buongiorno, siamo anche in diretta su Facebook, è il nostro sito, sulla nostra pagina Facebook 24 Mattino, ci trovate così. Oggi avremo ospite tra un'ora esatta il procuratore capo di Torino Giancarlo Caselli, perché è al centro di contestazioni, di polemiche, ancora in OTAV, alcuni hanno ieri devastato qualche treno, così. E poi parleremo di stipendi ai manager pubblici, perché c'è il tetto, lo sapete, dei 295.000 euro, che però può saltare. Questa è un'anticipazione che vi do dalla lettura dei giornali di oggi. E allora da cosa iniziamo? Proprio dalla lettura dei quotidiani, che ci riservano qualche gradita o sgradita sorpresa. In questo lunedì 27 febbraio, intanto lo sguardo ai titoli, l'edizione del lunedì del Sole 24 Ore: più armi al fisco contro l'evasione, questo è il titolo d'apertura, mentre c'è da dire che quasi tutti i quotidiani aprono sui dati dell'Eurostat, sui salari, dati pessimi per gli italiani, stipendi tra i più bassi d'Europa, così titola il Corriere della Sera. Per la Stampa, stipendi Italia maglia nera, l'Unità bassi salari, il Messaggero stipendi italiani tra i più bassi, il Secolo XIX Italia stipendi da serie B. E anche il quotidiano nazionale stipendi il piatto piange, mentre Repubblica apre su ecco l'Italia degli sprechi, ma la sanità, appalti, consulenze, la Corte dei Conti denuncia, è emergenza. Ma appunto noi parleremo dei maxi stipendi ai manager pubblici. Abbiamo scoperto che il capo della polizia con 600 mila euro, credo 690 mila, è al primo posto, no, circa 650 mila. Ma Sergio Rizzo, che sarà nostro ospite alle 8:30, a pagina 8 del Corriere della Sera: maxi stipendi, così può saltare il tetto massimo. Ecco la cronistoria dell'ennesimo pasticcio che potrebbe far saltare il limite di 295 mila euro deciso dal governo nel decreto Salva Italia. Scrive Rizzo: per avere un'idea del pasticcio combinato col tetto delle retribuzioni dei dirigenti pubblici bisogna riavvolgere il nastro agli ultimi 8 mesi. Luglio 2011 il Parlamento approva la manovra targata Tremonti, con la quale si stabilisce che non solo il costo dei nostri deputati e senatori sarà allineato alla media europea, ma che dovranno essere adeguate a quel parametro pure le buste paga degli alti dirigenti pubblici. Ed eccolo qui che nasce il pasticcio, cioè allineare alla media europea le buste paga degli alti dirigenti pubblici. Tra poco la commissione coordinata dal presidente dell'Istat Giovannini, che ha l'incarico di calcolare quelle benedette medie europee dei dirigenti pubblici, darà il proprio responso. E si chiede Rizzo: cosa accadrebbe allo stipendio del capo della polizia Manganelli, attualmente pari a 650 mila euro, se la commissione Giovannini appurasse che la media europea per la carica fosse 3 volte inferiore? In base alla manovra di luglio dovrebbe essere ridotta a quel livello, mentre secondo il decreto Salva Italia potrebbe scendere soltanto a 295 mila euro, cioè lo stipendio del primo presidente della Cassazione. Un bel dilemma, non c'è che dire, ma assolutamente da sciogliere se si vuole applicare il tetto alle retribuzioni pubbliche senza infognarsi in contenziosi allucinanti. Insomma, c'è il rischio che se la commissione guidata dal presidente dell'Istat, quando darà le medie europee dei dirigenti pubblici, e visto che bisogna adeguarsi a quelle medie europee, allora come verrà ritoccato lo stipendio? Adeguandosi a quelle medie europee o in base al decreto Salva Italia che stabilisce il tetto dei 295 mila euro? Pare che ci vorrà per questo da fare una nuova legge. Visto che in Italia ne abbiamo pochine, no, di leggi, e quindi potrebbe essere necessaria una nuova legge interpretativa. Questo per evitare tutti i ricorsi possibili, i contenziosi. Tra l'altro, su questo tema oggi anche l'editoriale del Corriere della Sera di Ernesto Galli della Loggia parla proprio della classe dirigente italiana, un club esclusivo di una certa età. Questo è il titolo dell'editoriale. Ciò che più colpisce nell'elenco dei grandi manager pubblici, percettori di alti redditi, reso noto nei giorni scorsi, è sì l'ammontare di denaro che ognuno di essi intasca, ma insieme, forse soprattutto, è il loro sesso e la loro età. Non ce n'è uno che abbia meno di 50 anni, a dir poco la media è senz'altro più alta, e tranne un paio di eccezioni sono tutti invariabilmente maschi. Non si tratta solo dunque dei politici, che anzi secondo me possono essere annoverati da molti punti di vista tra i meno privilegiati, scrive Galli della Loggia. In misura assai più pronunciata presentano i caratteri, i dirigenti pubblici, di una oligarchia di anziani colmi di benefici vari, pure i vertici delle aziende, delle amministrazioni pubbliche, dell'università, della magistratura, al tempo stesso del settore privato, dalla finanza all'industria fino al giornalismo, dove spesso i direttori, commentatori, titolari di rubriche costituiscono un vero e proprio club esclusivo dei soliti noti. Insomma, è un club esclusivo di una certa età, dice e scrive Ernesto Galli della Loggia in prima pagina. Tra l'altro, curiosità che leggo sempre dal Corriere, siccome avremo ospite anche il vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali alla Camera, vale a dire Roberto Zaccaria, che dovrà pronunciarsi, come la Commissione dovrà pronunciarsi entro qualche giorno, dare un parere su come mettere questo tetto ai dirigenti pubblici. Ebbene, sappiate che c'è questa curiosità, perché sulla trasparenza dei redditi la maggior parte dei parlamentari predica bene ma razzola male. È un po' il paradosso, si legge a pagina 2 del Corriere, dei deputati che mercoledì saranno chiamati a esprimere un parere sui tetti degli stipendi dei manager della pubblica amministrazione. Solo un terzo di questi parlamentari della Commissione Affari Costituzionali ha deciso di rendere pubblico il proprio reddito. È una decisione che il parlamentare può fare in maniera autonoma. E allora, questi parlamentari mercoledì dovranno esprimersi sul reddito dei manager pubblici, ma molti di loro fanno gli ignorri quando si tratta del proprio reddito. Lo chiederemo a Zaccaria, non so se ha reso pubblico il proprio reddito oppure no. Vabbè, di questo comunque parleremo alle 8.30. Voglio darvi un'altra segnalazione prima di andare in pubblicità, perché torna in auge la famosa cura Di Bella. Ve la ricordate? Spaccò l'Italia in fazioni. Il giudice ordina la cura Di Bella contro il cancro. Lo leggo a pagina 18 della Stampa, ma anche a pagina 22 dell'Unità. Torna il caso Di Bella, a Bari un giudice impone la cura. Scrive sulla Stampa Flavia Amabile: se un malato vuole curarsi col metro Di Bella, ha il diritto di chiedere alla propria ASL questa terapia in modo gratuito e immediato, come ogni altro trattamento. Lo ha stabilito il giudice della sezione lavoro del Tribunale di Bari, Maria Procoli, che ha accolto il ricorso presentato da un malato perché il metro Di Bella è ancora pienamente operativo. Chi può averne bisogno lo sa bene, c'è sempre qualcuno che per non sottoporsi alla chemioterapia preferisce altre strade. La ASL ora dovrebbe trovare un medico disposto a somministrare al paziente la terapia alternativa a base di somatostatina. Un condizionale d'obbligo, perché la ASL ha fatto ricorso avverso questa decisione. Si spacca ancora la comunità scientifica, perplesso, racconta la Stampa per esempio il senatore Ignazio Marino, che dice: nutro profondo rispetto per il lavoro della magistratura, ma che un magistrato imponga una terapia medica è una cosa che trovo assolutamente paradossale. E poi è bene ricordare che la cura Di Bella è stata ritenuta dalla comunità scientifica internazionale come non affidabile, mentre risponde il figlio di Di Bella, Giuseppe Di Bella, che dice: non conoscevo quest'ultima decisione di un giudice, ma sono oltre 2000 in Italia le sentenze che hanno condannato finora le ASL a erogare la terapia di mio padre. Insomma, un dibattito che certo non raggiungerà, visto un caso di Bari, non raggiungerà i livelli di quegli anni, ve lo ricordate certamente, ma è chiaro che questo torna in auge, questa vicenda della cura Di Bella. 24 mattino. Siamo qui allora alle 7:34 minuti, continuiamo la lettura dei giornali con la notizia che certo rallegra tutti voi, tutti noi, tutti coloro che si stanno recando ai posti di lavoro in questo momento, no? Sappiate che l'Eurostat ha accertato che gli stipendi italiani sono tra i più bassi d'Europa. Non certo quelli delle posizioni apicali dei manager pubblici, di cui parleremo tra poco alle 8.30, ma degli italiani, della media degli italiani. Gli stipendi italiani troppo bassi. Leggiamo per esempio dal Corriere della Sera: i lavoratori italiani sono tra i meno pagati d'Europa. Un salariato italiano a parità di condizioni guadagna circa la metà di quanto guadagnano i suoi colleghi in Germania, in Lussemburgo o in Olanda. Addirittura viene pagato quasi un terzo del salariato danese e un po' meno di spagnoli e ciprioti. Ma fino a ieri l'italiano ha avuto degli stipendi più magri perfino di quelli greci. Ebbene, eccola qui, lo stabilisce appunto la fotografia dell'Eurostat, che in Europa stabilisce e colloca, fa la classifica dei salari dell'Eurozona. Il primo, la retribuzione media 48.914 euro in Lussemburgo, poi Paesi Bassi 44.000, in Germania 41.000, in Belgio 40.000, in Irlanda 39.800, in Finlandia 39.000, poi la Francia, l'Austria, la Grecia, la Spagna, il Cipro, eccolo qui l'Italia, 23.406 euro. Peggio dell'Italia solo Portogallo, Slovenia, Malta e Slovacchia. E vabbè, allora, che dire di questa notizia? Il segretario della CISL Bonanni la commenta in un'intervista al Quotidiano Nazionale, dice: questo è il vero problema, non l'articolo 18, questi dati non sono una novità, costringono a farci vedere che il re è nudo. E chi sarebbe il re? Chiede il Quotidiano Nazionale a Bonanni. La politica, che da troppi anni applica la strategia dello struzzo per non essere costretta ad affrontare i veri problemi che stanno facendo scivolare l'Italia agli ultimi posti di tutte le classifiche europee. Il primo problema in assoluto è la scarsa produttività del sistema Italia. Da lì discendono scarsi redditi sia da lavoro sia da pensione, la bassa redistribuzione dei redditi, le infrastrutture inefficienti, i vincoli energetici. Insomma, siamo in ritardo sotto tutti gli aspetti, non solo su quello delle retribuzioni. Ecco questa l'analisi impietosa di Bonanni. Mentre il ministro del welfare Elsa Fornero ha commentato, è a New York in questi giorni perché deve seguire un convegno, il meeting dell'ONU contro le mutilazioni genitali femminili, e però accetta anche di fare un colloquio con qualche giornalista, lo fa nella residenza dell'ambasciatore italiano all'ONU Cesare Ragaglini, ma fa anche un'intervista a Repubblica, intervistato da Federico Rampini. Elsa Fornero, a pagina 9 di Repubblica, parte proprio dai dati degli stipendi. Attenzione, dice il ministro Fornero, l'Italia al paradosso di stipendi bassi e costo del lavoro alto per due ragioni. Una è la pressione fiscale, quindi la differenza tra salario netto e lordo, che è maggiore rispetto ad altri paesi. Un'altra è la produttività, che incide sul costo del lavoro per unità di prodotto. A questo c'è chi risponde come Sergio Marchionne: datemi la stessa flessibilità che ho negli Stati Uniti e investirò di più. E a proposito di Marchionne, Fornero dice: Marchionne è uno che rompe gli schemi, a volte in maniera anche troppo decisa. Il tema che pone è reale. Vogliamo che l'Italia rimanga una delle grandi nazioni produttrici di auto? Lui afferma che senza una nuova organizzazione del lavoro non è possibile. Come ministro del lavoro devo vigilare che la flessibilità non contenga elementi di discriminazione. Un esempio relativo alle donne che voglio verificare: tra le assenze ingiustificate non può figurare l'assenza per maternità, non la si può penalizzare. A proposito di flessibilità, il ministro poi dice: la flessibilità cattiva è quella a cui fanno ricorso le imprese per vivacchiare, non per rilanciarsi sui mercati internazionali. Non c'è dubbio che nel mercato del lavoro la parte più debole è il lavoratore. Tutta la nostra riforma nasce da una profonda sofferenza sociale per l'imbarbarimento e l'impoverimento del mercato del lavoro in Italia. È successo un avvitamento verso il basso e la condizione dei lavoratori è oggettivamente peggiorata. Insomma, tra l'altro parla il ministro Fornero proprio nel momento in cui è la settimana dopo che sarà tornata da New York in cui entrerà nel vivo la riforma del mercato del lavoro. Tra l'altro sul Corriere della Sera, nell'articolo di Massimo Gaggi, c'è questo retroscena, no? Del ministro che all'osservazione di Aldo Grasso, che sul Corriere aveva detto e aveva scritto che tratta in qualche modo come incalliti studenti fuori corso i sindacalisti con cui ha a che fare, il ministro Fornero risponde: beh, effettivamente cosa vuole, ognuno si porta dietro quello che è, la sua storia. L'altro giorno mi è scappato perfino un "ma oggi siete veramente indisciplinati" e mi sono presa subito dell'accusa di fare la maestrina. Va bene, ci sta anche questo. Io comunque ho il massimo rispetto per tutti, mi dicono che non rispetto i riti e i rituali del confronto, ma io questi riti non li conosco. Insomma, questa è la difesa del ministro Fornero anche sul metodo che usa, no? Spesso viene accusata di fare la maestrina col ditino alzato. A proposito di riforma del mercato del lavoro, a proposito di lotta all'evasione, un altro grande tema di attualità, su questo oggi si concentra il Sole 24 Ore, l'edizione del lunedì. Più armi al fisco contro l'evasione, sono 10 le nuove armi che vengono illustrate da Cristiano Dell'Oste e Giovanni Parente a pagina 3. Dalle dogane ai giochi fino alle onlus, un mix di interventi. Per esempio, interessante questo, la possibilità di ispezionare le sedi degli enti no profit. Oggi questi locali sono considerati domicilio privato, ma a volte nascondono attività commerciali a tutti gli effetti, come bar, sale da gioco, palestre o centri ippici, sale di registrazione musicale. Oppure c'è la possibilità per i funzionari dei monopoli di andare a giocare in incognito alle slot machine e ai videopoker per individuare locali fuori legge. Queste sono i nuovi strumenti per la lotta all'evasione che sono stati inseriti nella manovra Salva Italia. Alcune di queste, oppure appunto abbiamo detto quello del controllare di più le onlus, oppure non più gli sconti agli spalloni, quelli che portano il denaro illecitamente all'estero, perché finora uno spallone che veniva beccato con i contanti se la cavava pagando il 5% delle somme trasferite oltre il limite consentito. Ora invece si abbassa la soglia a 40.000 euro del massimo che si può, delle violazioni che si possono ottenere, non più 250.000 euro, e si aumenta il pagamento al 15% di quanto uno sta trasportando. Insomma, nuovi strumenti che trovate nel dettaglio per la lotta al sommerso sul Sole 24 Ore a pagina 3. A proposito di tasse, fa anche molto discutere la questione dell'IMU, io la chiamo sempre ICI perché la gente capisce di più, l'ICI alla Chiesa o ai beni di proprietà della Chiesa. Sapete che Mario Monti e il suo governo ha voluto cambiare, ha detto basta, ora l'ICI deve essere pagata per tutti i beni immobili di proprietà della Chiesa Cattolica e non solo della Chiesa Cattolica, se ci sono quegli immobili a uso non esclusivamente commerciale, si paghi l'ICI per quella parte dell'immobile che è a uso commerciale, e la parte di immobile che invece non è a uso commerciale verrà esentata dall'ICI, come è ora. Tutto il tema e tutto il dibattito è quello relativo alle cosiddette scuole paritarie. Si è aperta una polemica all'interno del mondo politico a dire che vuol dire le scuole paritarie, le scuole asilo nido gestito dalle suore, gli salesiani che gestiscono, questi devono pagare, queste scuole devono pagare oppure no? Ebbene, la linea che sembra prevalere all'interno del governo, oggi la trovate su tutti i giornali, a pagina 9 del Corriere della Sera, il punto più importante è del documento è il numero 3. Ai fini dell'applicazione dell'esenzione è necessario che l'attività non debba chiudere con un risultato superiore al pareggio economico o che eventuali avanzi di gestione siano reinvestiti totalmente nell'attività didattica. Che cosa vuol dire, se non l'avete capito? Vuol dire questo: pagano le scuole che ci guadagnano. Non pagano quelle che con le rette coprono le spese o che usano il di più solo per migliorare il proprio istituto. Questa sarebbe la soluzione che circola, è una soluzione che circola, non è una soluzione ancora adottata, per quel che riguarda le scuole. Dunque, le scuole paritarie. Paritarie vuol dire quelle che non sono statali ma si impegnano a rispettare tutte le regole del settore pubblico, no? Quindi l'accoglienza agli studenti disabili, l'applicazione del contratto collettivo per gli insegnanti, la pubblicazione del bilancio, insomma queste sono le scuole paritarie. Ebbene, la linea del governo pare questa: le scuole che ci guadagnano con le rette alla fine dell'anno da bilancio, hanno guadagnato qualcosa, quelle devono pagare l'ICI, quelle che invece non ci guadagnano e quindi fanno una funzione sociale di scuola paritaria, per l'appunto, che affianca quella pubblica, allora queste non dovrebbero pagare. Siamo sempre al condizionale, questa è la linea che pare voler imboccare il governo. Anche la stampa apre su questo con pagina 2-3. A pagina 3 il vaticanista Giacomo Galeazzi: l'IMU alle scuole cattoliche scuote la maggioranza, così non può passare. C'è una forte rappresentanza di politici che sono anche cattolici in Parlamento che dicono non si può fare così, bisogna chiarire cosa vorrà fare appunto sulle scuole paritarie Monti. Ieri il ministro Passera ha rassicurato la Chiesa in una lunga intervista a Maria Latella su Sky: ICI alle scuole solo se fanno profitti, ecco questo è il senso dell'intervento. E intanto Berlusconi c'è stata tutta la polemica, per la verità un po' edulcorata, ma era abbastanza prevedibile da quando non è più presidente del Consiglio, dopo la sentenza Mills. Prosciolto per avvenuta prescrizione, adesso dibattiti in Italia, che vuol dire? È colpevole, è innocente, è prescritto, è fuori dal processo, deve essere fatto ricorso, è dentro al processo... E allora Berlusconi, la lite sulla prescrizione salva Berlusconi, tutto un profluvio di dichiarazioni politiche dopo la sentenza Mills. Berlusconi è stato prosciolto per avvenuta prescrizione dall'accusa di avere corrotto l'avvocato Mills. Allora Bossi, vabbè, ormai sono ai ferri corti, Silvio assolto ma fa una brutta impressione, ecco. Che dire, vi segnalo, troverete una marea di reazioni politiche, eccetera. Vi segnalo l'editoriale di Giuliano Ferrara sul Foglio lunedì: cavarsela come ha fatto il CAV vuol dire tante cose, scrive Ferrara. Il PM di Milano non è riuscito a dimostrare in tempo giudiziario a Concio quel che voleva dimostrare, ha perso il processo e non è la prima volta che a Milano perdono lunghi, tortuosi e sinistri processi contro l'uomo politico e l'imprenditore che fu fatale alla patria negli ultimi 20 anni. Quando poi si dimostrerà che Papi non era un corruttore di minorenni né un concussore di vicequestori, al massimo un matto godereccio e un seduttore con estro libertino, il cerchio sarà definitivamente quadrato. E la quadratura è che Berlusconi ha buoni avvocati, una resistenza bestiale, cattivi persecutori, un giudizio. Ammetterete che sono soddisfazioni. Con Berlusconi, scrive ancora Ferrara, la giustizia è stata più uguale che con gli altri, è stata politica, ideologica, una campagna culturale di piombo all'insegna del più falso e maligno dei moralismi. Diranno che non si può festeggiare una prescrizione di reato, come per Andreotti e la mafia, i reati prescritti ovviamente non esistono dal punto di vista di uno Stato di diritto, ma non fa niente, chi è prescritto è proscritto secondo una certa logica d'assalto. Invece i proscioglimenti tecnici sono una bella cosa, dimostrano che nonostante tutto c'è all'occasione un giudice che dubita della propria onnipotenza, che certe forzature non possono travalicare il senso del limite legato a un giusto processo. Vabbè, comunque, questa è la sensazione, che ci sarà un dibattito su prescrizione, sì, no, è già cominciato, ovviamente continua tutto il weekend, c'è anche l'ex, no, non l'ex, perché volevo dire l'ex Cirielli, l'onorevole Edmondo Cirielli, che è stato nostro ospite settimana scorsa e per la cui legge, o meglio ex legge, definita ex Cirielli perché lui poi se ne è dissociato, Berlusconi insomma, è la legge che ha accorciato anche i tempi della prescrizione. Quindi Fabrizio Roncone sul Corriere della Sera va a intervistare l'onorevole Cirielli, come dire, e grazie alla sua legge, e subito Cirielli, come aveva detto ai nostri microfoni, prende le distanze e dice: guardi, la mia legge era una legge diversa, poi fu messo un emendamento che comparve all'improvviso. Io nella politica metto una forte tensione morale ed etica, sono un ufficiale dei carabinieri, tenente colonnello in aspettativa, sono stato all'Accademia di Modena, ho un'educazione, una cultura di un certo tipo. E allora mi dimisi da proponente e ritirai la firma della proposta di legge. Ma purtroppo il regolamento parlamentare prevede che il cognome del proponente resti comunque sui documenti. Venne aggiunto solo un asterisco piccolo, piccolo, accanto a cui si spiega ciò che è accaduto. Ecco perché la legge di cui ha beneficiato anche Berlusconi per l'accorciamento dei tempi di prescrizione ora viene definita legge ex Cirielli. Cioè Cirielli che sta facendo di tutto per togliere quel suo cognome da quella legge, ma non può per i regolamenti parlamentari. Allora viene definita legge ex Cirielli. Segnalo una bella pagina del Corriere della Sera, oggi a pagina 25, ci sono due interviste a due persone. Una è Maurizio Azzollini, che oggi è capo di gabinetto del vice sindaco di Milano, Maria Grazia Guida, ma che Libero, il quotidiano Libero, ha scoperto essere stato nel 1977 in una famosa celeberrima foto in Via De Amicis con pistola in pugno e passamontagna quando aveva 17 anni che sparava verso la polizia. In quella manifestazione a Milano fu ucciso anche il poliziotto Antonio Custra. Non fu ucciso da Azzollini, che però sparò verso la polizia. C'è la polemica perché si dice, e diceva Libero e scriveva Libero nei giorni scorsi, un ex terrorista è ora il capo di gabinetto appunto del vice sindaco di Milano. In questa intervista doppia, il Corriere intervista proprio Azzollini, che dice: con il lavoro in comune pago il mio debito, avevo 17 anni all'epoca, ho provato altre volte cosa significa aprire un giornale e ritrovarsi lì. Queste notizie mi sembrano una strumentalizzazione finalizzata a un modo di fare politica che mi sento di avvicinare a quello sbagliato che ho utilizzato a 16 anni. All'epoca, a 17 anni, come tantissimi giovani, credevo di poter cambiare il mondo. L'ho fatto impegnando tutto me stesso in un modo tragicamente sbagliato. Ma ho pagato i conti con la giustizia, 5 anni in carcere e parte in libertà condizionata. Poi ho vinto un concorso al Comune di Milano ed ora è tutto in regola. Mentre la seconda intervista è alla vedova di Antonio Custra, ucciso appunto in quella manifestazione. Dice la vedova: ero a Milano 35 anni fa di questi tempi, ero felice, poi è arrivata quella manifestazione, ricordi dolorosi, non sono mai più andata a Milano se non per questioni formali e burocratiche. So benissimo chi è Azzollini, so altrettanto bene che è uno dei nomi che non scorderò mai perché è legato alla morte di mio marito. Lo ricorderei per quello che è, uno che ha fatto del male, anche se non è stato lui ad ammazzare mio marito. Insomma, questa doppia intervista molto intensa e molto bella che vi segnalo, sia a Maurizio Azzollini, se ha 17 anni, pistola in pugno in Via De Amicis, oggi capo di gabinetto del vice sindaco di Milano, e sia la vedova di Antonio Custra. Avremo il procuratore capo Caselli alle 8:20, Notav, ci sono state ancora non scontri in Val di Susa, ma problemi sui treni al rientro, anche insulti allo stesso Caselli. Dobbiamo parlare della Moldava, quella sera baciai Schettino e saremmo finiti a letto, ma purtroppo c'è stato uno scontro con uno scoglio. Passiamo oltre. Devo chiudere, devo leggere il titolo della Gazzetta dello Sport. Il Pocio affonda Ranieri, ah ecco, Napoli-Inter. Ma le polemiche sono tutte ancora su Milan-Juventus. Il guardaline sulla stampa, quello che penso che abbia fatto qualche errore, no? Quel guardaline lì, quello occhio di lince viene giudicato oggi dal Quotidiano Nazionale. Il guardaline prima della partita confessò agli amici: questa partita mi terrorizza. E Gene Gnocchi sulla prima della Gazzetta dello Sport: Buffon, non ho visto, ma anche se avessi visto non avrei parlato. E Provenzano: mi piace questo picciotto, bravo. 24 mattino. Eccoci qua, ben ritrovati da Alessandro Milan, sono le 8:19, voglio salutare il procuratore capo della Repubblica a Torino, Giancarlo Caselli, procuratore, buongiorno. Senta, da un po' di tempo, da quando la Procura di Torino ha sostenuto insomma un'azione giudiziaria nei confronti di 26 antagonisti che in Val di Susa lanciarono oggetti contro le forze dell'ordine e il movimento Notav, l'avrà visto anche ieri in manifestazioni, alcune frange o meno del movimento Notav l'hanno presa di mira, possiamo usare questa parola, procuratore? Certamente sì, anche se il problema nel momento in cui riguarda me, guai se fosse valutato come circoscritto a me soltanto. È un attacco alla giurisdizione, è un attacco alla democrazia, è una ricerca di impunità, di privilegi. C'è qualcuno che non ci sta ad essere uguale agli altri di fronte alla legge e non vuole essere sottoposto al controllo di legalità. Senta, quando lei legge scritte come Caselli, come Ramelli, che per chi non lo sapesse nel 75 militante del Fronte della Gioventù fu ucciso a sprangate, cosa prova? Da un certo punto di vista mi preoccupo, da un altro punto di vista mi indigno, perché in un paese civile tutto questo non dovrebbe succedere e se succede dovrebbe scatenarsi una reazione dialettica forte, netta, decisa, univoca. Si dovrebbero chiamare questi signori che fanno queste scritte sui muri col loro nome, delinquenti, e senza invece balbettare qualche distinguo, sì, ma forse, ecco, che finisce per essere complice, nel senso che obiettivamente alimenta una tendenza in atto, ripeto, molto pericolosa per la nostra democrazia, che potrebbe anche portare chissà a che cosa. Ma lei questi balbetti li ha colti oppure? Beh, basta leggere i giornali, ecco, ma tutta una serie di distinguo. Ecco, partiamo dall'inizio però, se lei mi permette. La Procura della Repubblica ha sostenuto una certa azione investigativo-giudiziaria. Però oggi ci sono già tre ordinanze del Tribunale della Libertà di Torino, la prima dell'8 febbraio di quest'anno. Il Tribunale della Libertà è una struttura giudiziaria che l'ordinamento prevede a tutela dei diritti dei cittadini detenuti, della loro libertà in modo particolare, e questa struttura terza al di sopra delle parti, indipendente da tutto e da tutti, in particolare dal pubblico ministero, per tre volte ha detto che le cose sono successe in una maniera tale per cui dalla descrizione, ricostruzione terza del Tribunale della Libertà bisogna partire. L'ordinanza è pubblica, chiunque voglia leggerla se la può facilmente procurare. A pagina 27 si parla di devastante e incontenibile violenza, condotte combattive organizzate, configurazione tipicamente sovversiva, elevata potenzialità lesiva, gravità particolarmente elevata, devastante aggressività, propensione dei soggetti agenti ad un uso strumentale della violenza spinta a livelli di massima irreparabile micidialità, e la parola micidialità torna quattro volte sotto. Quindi lei dice no. 220 poliziotti e carabinieri feriti e contusi, non perché c'erano chicchi di grandine un po' più grossi del solito, ma perché grandinavano sassi, grandinavano estintori, grandinavano bottiglie di ammoniaco e via seguitando. L'accusa che fanno però, procuratore, è questa, cioè ci sono state queste azioni nei confronti di questi violenti che hanno fatto queste azioni, ma così si rischia di e si vuole far passare un'idea di criminalizzazione di tutto un movimento che per varie sfaccettature, vari motivi che qui non ci interessano, contesta questa realizzazione dell'opera. Ecco, chi dice queste cose è completamente fuori dalla realtà e fa della black propaganda immotivata. L'abbiamo detto in tutte le salse, è scritto anche nel provvedimento della TL che ho appena letto, al di là delle sottostanti motivazioni ideologiche di natura sociale e ambientalistica, che quando anche supportate da un significativo livello di condivisione in ambito sociale potrebbero avere tutte le ragioni di questo mondo, non scriminano certamente il sottostante inoppugnabile valore, portata antigiuridica di una gravità particolarmente elevata dei comportamenti delittuosi presi in considerazione. E voglio dire, parlare di criminalizzazione del movimento, quando l'intervento è rimasto circoscritto a specifici fatti di violenza riferiti a singoli individui, singoli soggetti raggiunti da prove personalizzatissime, parlare di criminalizzazione del movimento è parlare di una cosa che non sta né in cielo né in terra. Io ho detto spesso in questi giorni, lo ripeto anche stamattina, un esempio, se vogliamo, paradossale, estremizzante sicuramente, ma tanto per capirci, parlare di criminalizzazione del movimento quando si procede solo ed esclusivamente per specifici fatti di violenza è come dire che se si procede per stupro contro qualcuno si criminalizza il sesso. No, lo stupro è violenza, il sesso un'altra cosa. Il movimento NoTav, che può anche avere ragione in tutto questo mondo, non è mio compito dire se sì o no, è una cosa, gli atti di violenza sono tutt'altra cosa e procedere contro gli atti di violenza non significa criminalizzare niente. Senta, nei giorni scorsi lei voleva presentare il suo libro a Milano e da lì è nato un po' il tutto, cioè è stata annullata per rischio di contestazioni questa presentazione del suo libro Assalto alla giustizia. Ieri Giampaolo Pansa sulle colonne di Libero è stato molto duro con lei, le ha detto non faccia la vittima, non è l'unico lei, non è l'unica persona al mondo al quale viene impedito di presentare un libro, Giancarlo Caselli. Ma guardi, se a Giampaolo Pansa hanno impedito di presentare dei libri, non lo so, lo dice lui, non è un buon motivo perché lui consideri gli altri che subiscono la stessa sorte come persone che debbono tacere e tenersela. Ma questo è un modo perverso di ragionare. Giampaolo Pansa è una persona molto stimabile, assolutamente stimabile, non lo dico per piaceria o per retorica, ma per cortesia, stia al suo posto, perché io non gli ho mai detto che lui ha sbagliato quando ha protestato e lui non si permetta di dire che sbagliamo noi quando protestiamo, perché ripeto, non è una protesta nostra individuale, è una protesta per garantire livelli di civiltà, perché non abbiamo cancellato o rinviato alcune presentazioni per timore delle contestazioni, no, esclusivamente per timore che questi signori violenti nelle loro contestazioni coinvolgessero persone per bene venute in una libreria, questa o quella, unicamente per esercitare dei loro fondamentali diritti democratici, il diritto di stare insieme, il diritto di discutere e di confrontarsi intorno a una circolazione di idee, senza essere costretti ad una circolazione di violenza variamente assortita. Sì. Ma se in un paese democratico succede che non si possono tenere incontri culturali perché c'è qualcuno che con la violenza lo vuole impedire e mette a rischio l'incolumità delle persone per bene che vorrebbero serenamente partecipare, ecco qualcosa che è molto, molto simile allo squadrismo e che soprattutto se si combina con le ignobili scritte sui muri, Caselli come Ramelli, Caselli brucerai, Caselli boia, Caselli torturatore, Caselli mafioso, ma per favore, io ho chiesto volontariamente qualche anno fa di lasciare la mia Torino dove ero presidente di Corte d'Assise per andare a lavorare a Palermo, a dirigere quella procura, a prendere sostanzialmente il posto di Falcone Borsellino, massacrati dalla mafia. Poi, recentemente tornato a Torino, la mia procura, e quindi c'entro anch'io in una certa misura, ha fatto un'operazione anti-ndrangheta nel Piemonte, operazione Minotauro, con 150 arresti. Chi mi chiama mafioso si squalifica da solo. È quella la cosa che le ha fatto più male? Oppure... Ma dal punto di vista dell'intelligenza, della cultura e del buonsenso questa, dal punto di vista così della decenza, ecco, Caselli come Ramelli è una bruttissima cosa, anche perché molti dei giovani oggi che partecipano a questi sommovimenti, chi è Ramelli non lo sanno neanche. Chi ha scritto Caselli come Ramelli ha voluto dire qualcosa

Il tetto sarebbe di 295.000 euro, che già non è poco. Ci sono manager pubblici che sforano, guadagnano un bel pochino di più. 24 mattino. Allora, le 8:37 minuti, la scorsa settimana il ministro della funzione pubblica, Patroni Griffi, con un po' di difficoltà, è riuscito a portare alla Commissione Affari Costituzionali, la Commissione Lavoro della Camera, i dati dei manager pubblici, gli stipendi dei manager pubblici. C'è un tetto, quello da 295.000 euro deciso dal governo nel decreto Salva Italia, che però è sforato da alcuni. Ha fatto scalpore soprattutto lo stipendio del capo della polizia Manganelli, 650.000 euro circa. In ogni caso, ne vogliamo parlare con l'onorevole Roberto Zaccaria, che saluto, buongiorno, del Partito Democratico, è vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali. Saluto anche Sergio Rizzo, giornalista del Corriere della Sera. Sergio, buongiorno. Buongiorno. Ben ritrovato. Oggi, tra l'altro, tu ne scrivi, perché ci spieghi qualcosa sul Corriere della Sera molto interessante. Prima però, onorevole Zaccaria, le vorrei fare una domanda personale, perché oggi il Corriere della Sera scrive a pagina 2: i parlamentari della commissione che dovranno dare un parere su questo tetto di stipendi, molti di loro non hanno reso noti invece i loro stipendi, cosa che si può fare con un atto, diciamo, volontario. Lei lo ha fatto, onorevole Zaccaria? Sì, ma l'ho fatto da tempo, 2 anni fa. Beh, non è uno dei, un terzo dei parlamentari l'ha fatto, altri no. Sì, comunque l'ho fatto, per me è pacifico, insomma, che un parlamentare, un uomo di governo debba fare queste cose, quindi insomma non c'è problema. Va bene. Sergio Rizzo, allora, oggi spieghi sul Corriere che questo tetto da 295.000 euro, al quale abbiamo scoperto non si attengono molti manager pubblici, intanto può saltare. Perché? Cioè, qual è l'inghippo? Intanto ce ne sono due di tetti, non ce n'è uno solo, perché io non so come si scrivono in questo paese le leggi, francamente, ma si fa a luglio una legge che dice che gli alti burocrati dello Stato, oltre ai parlamentari, perché ci sono anche i parlamentari, devono rispettare la famosa media europea. Quindi si calcola la media, che adesso il capo della polizia, vediamo quanto prendono i capi della polizia dei sei principali paesi europei, esclusa l'Italia naturalmente, e dopodiché il nostro capo della polizia si dovrebbe attenere a quella media europea. Esatto, poi però salta fuori dopo qualche mese un'altra norma di legge che stabilisce come limite massimo lo stipendio del primo presidente della Corte di Cassazione. Allora, a quale bisogna uniformarsi? Esatto, è bello che non lo sanno neanche loro. Non lo sanno neanche loro, infatti tu hai scritto che forse ci vorrà un'altra legge, perché ne abbiamo poche, per evitare poi i ricorsi, no, di chi... Ma chi... sì, o quantomeno una interpretazione autentica, qualcosa che ci dica quale delle due norme è prevalente. Certo che questo complica ancora di più un percorso già molto accidentato di questa norma, perché, no, certo. Perché per esempio... La disposizione prevede che questo tetto sia onnicomprensivo, quindi ci devono essere dentro anche i cosiddetti incarichi aggiuntivi, che ne so, comitati, le commissioni, i consigli di amministrazione delle società controllate, tante cose. E il fatto è che non esiste una banca dati, cioè non c'è un luogo fisico centralizzato dove si possa sapere, dove lo Stato possa sapere un proprio alto dirigente quanto prende davvero, perché sono talmente tante in alcuni casi le amministrazioni che retribuiscono questa persona che non si riesce ad avere la somma, o meglio si potrebbe avere ma sarebbe molto complesso. Ma infatti credo che lo stesso ministro Patroni Griffi, vorrei chiedere conferma all'onorevole Zaccaria, sia venuto in commissione a dire: questi sono i dati che per ora sono riuscito a raccogliere, ma non sono neanche i dati completi, cioè gli stipendi, alcuni, le classifiche le abbiamo viste, il primo è il capo della polizia, ma non è l'unico che sfora questi 295.000 euro. Onorevole Zaccaria, sono dati incompleti, in realtà ci sono poi commissioni, gettoni di presenza che non si fatica anche a capire quanto guadagnino realmente. Dunque, che i dati siano incompleti è fin troppo evidente, perché è evidente, insomma, l'ha detto il ministro, ma basta leggere, ci si rende conto che per alcune amministrazioni non sono date, poi non sono compresi i dati, quello che diceva Rizzo, della onnicomprensività, quindi cioè, insomma, diciamo che questo è un dato acclarato, cioè che la pubblica amministrazione non è in grado di avere un luogo nel quale questi dati siano in qualche modo posseduti in maniera chiara. Però il problema, volevo dire, i dati sono importanti naturalmente, però il problema ancora più importante è quello a cui accennava Rizzo un momento fa, cioè nel senso che bisogna fare ordine nella legislazione e soprattutto capire quale norma si applica. Adesso noi stiamo applicando quella più recente, quella del Salva Italia, e soprattutto con che tipo di modalità la si applica. Questo è il punto, quello che secondo me è il punto più importante, è la modalità applicativa, cioè questo elemento, capire se sostanzialmente questo tetto opera immediatamente o opera con il rispetto delle fonti che regolano questo tetto, il trattamento economico, cioè nel senso che alcuni sono regolati da contratti collettivi, sì, altri da contratti individuali, altri hanno un regime stabilito per legge. Questo è. Sì, insomma, c'è una, un po' una giungla anche interpretativa, mi sembra di capire. Tra l'altro, Sergio Rizzo, proprio oggi, io non sapevo ovviamente i dati dell'euro stati in arrivo, ma proprio oggi che effetto fa per gli italiani sentire che siamo tra i meno pagati in Europa, il salario medio è la metà di quello che si percepisce in Germania, per esempio, o un terzo rispetto a quello che si percepisce in Danimarca, e leggere che questo tetto c'era già da anni, perché varie volte, è così Rizzo, varie volte si è provato a imporre un tetto ai dipendenti pubblici, e perché non si è mai riuscito a far rispettare? Sono tanti anni che ci si prova, no? L'ultima volta, era successo anche prima del governo Prodi, quello che è durato così poco, che diciamo si è chiuso nel 2008, ma il governo Prodi aveva provato a mettere un tetto, soltanto che era esattamente identico, anzi diciamo che quel tetto esiste perché c'è una norma che non è mai stata abrogata, quindi addirittura ci sono due leggi che prevedono il tetto del primo presidente della Corte di Cassazione. Loro si sono trovati però di fronte alle stesse difficoltà di fronte a cui si sta trovando questo governo, cioè tutta una serie di questioni che hanno a che fare, come diceva giustamente Zaccaria, anche con le modalità applicative, no? E ne vennero fuori in un modo abbastanza singolare, perché stabilirono che il tetto non valeva per le retribuzioni ordinarie, ma valeva soltanto per gli incarichi aggiuntivi, quindi tu potevi continuare a prendere, che so, 500.000 euro di stipendio, come nel caso del ragioniere generale dello Stato, poniamo. Sì, Mario Canzio. E poi però cumulare a questo anche, che non è il caso di Canzio però, cumulare a questo anche fino a 300.000 euro di altri incarichi aggiuntivi, quindi diciamo era un tetto per modo di dire, anche un po' una... Ma poi ci fu anche quella vicenda, ma non so se è legata a questa, di Michel Hunziker, io me la ricordo, che andò a Sanremo e si sforò, che ci fu fatta la deroga perché prese, o quella era un'altra vicenda. Perché no, è la stessa vicenda. È la stessa vicenda, cioè, perché, capite? C'era un tetto, ma l'abbiamo derogato per avere Michel Hunziker a presentare Sanremo. Ecco, sì, perché lì la legge è scritta male. Era scritta male, ma anche questa non è scritta tanto bene, perché diciamo il problema è chi è che ricade sotto questo tetto. Ricadono per esempio anche i compensi agli artisti, esatto, che vengono erogati da un'azienda pubblica come la RAI? In teoria sì, in pratica però no, visto. Poi alla fine, se visto, no. Ma noi vogliamo bene a Michel Hunziker. Aspetta, fermati un attimo, devo dare le informazioni sul traffico, poi ripartiamo, vi darò anche i dati abbiamo detto il capo della polizia Antonio Manganelli è quello in questa classifica che guadagna di più e sfora di più, ma è una classifica tutta parziale, tutta un po' da vedere ancora. Allora, chi sono i dipendenti pubblici che guadagnano oltre 295.000 euro, il tetto messo dal decreto Salva Italia dal governo? Dunque, secondo questa parziale classifica, primo il capo della polizia Manganelli, 621.000 euro, poi Mario Canzio, ragioniere generale dello Stato, 562.000 euro, quindi al terzo posto Franco Ionta, ex capo dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, con 543.000 euro, poi Vincenzo Fortunato nel Ministero dell'Economia, capo gabinetto con 536.000 euro, e via via gli altri, ma la classifica l'avete letta. Allora, siccome ne stiamo parlando con Sergio Rizzo del Corriere della Sera e l'onorevole Roberto Zaccaria del Partito Democratico, che è vicepresidente di quella commissione affari costituzionali che dovrà esprimere un parere su questo, ecco, onorevole Zaccaria, le chiedo non certo di anticipare il parere della commissione, ma la sua posizione personale qual è? Questo stabilito che si riuscirà a capire quale legge applicare, è un limite che non va derogato? No, scusi, allora io vorrei semplicemente dire, lei mi chiede la posizione, le dico la mia personale, certo. Sia la posizione, cioè nel senso la mia sensazione è che non sia neanche quella di maggioranza. Adesso io le darò il mio punto di vista perché lei mi ha intervistato a me. Allora, per me la norma in linea di principio è giusta, come ha detto Rizzo, è importante dire che negli ultimi anni questo principio in vari modi è stato inserito nella legislazione, quindi norma giusta. La norma è incompleta perché questo è un problema che non riguarda il parere, ma pone questo tetto per alcune amministrazioni, quelle centrali, non quelle locali, per alcune autorità indipendenti e non per tutte. Quindi la norma andrà completata, perché se no si realizza un'iniquità. Se il mio vicino ha un trattamento più alto e non ricade, evidentemente è ingiusto. Questo è un primo problema. Il secondo problema è quello che, fissata la giustezza della norma, bisogna dire come opera, perché voi avete citato queste retribuzioni. Allora, siccome c'è un principio che la Corte Costituzionale ha detto tante volte, cioè che non si può riformare una retribuzione in peggio. La reformatio in peggio. Vabbè, lo sto dicendo in italiano. Questa cosa l'abbiamo citata nelle scorse giorni, fa arrabbiare i cittadini, semplice, no? La reformatio in peggio. Facciamo un esempio molto semplice. Cioè, quando si parla di quei trattamenti, ci sono varie componenti di quei trattamenti. C'è la retribuzione e ci sono delle indennità o varie altre cose. È evidente che una indennità, pensiamo alle indennità delle autorità indipendenti, è evidente che quelle indennità, una legge dice, non devono essere superiori a quelle del primo Presidente della Cassazione. Sì, per le indennità si può operare oggi per domani, perché evidentemente l'indennità non è una cosa consolidata, ma se per caso parliamo di retribuzione, la retribuzione, cioè che uno ha acquisito attraverso gli anni, si può discutere se sia giusto o non sia giusto, io penso che per alcune funzioni è giustificato, non si può riformare come una ghigliottina, perché vede, se lei fa questo, lei è più radicale di me nell'attuazione. Però io le posso dire che non domani, ma dopodomani ci sono i ricorsi. Il giudice dirà pacificamente non si può fare così. La posizione è chiara. È Sergio Rizzo, tra la reformatio in peius, quando io l'ho letta nei giorni scorsi, insomma, vale, non vale per i cittadini, no? Adesso, al di là delle facili ironie, se ne uscirà con qualche taglio da questa vicenda? Secondo me no, o almeno non rapidamente, perché effettivamente la cosa è molto complessa. C'è l'altro aspetto che sottolineava Zaccaria, che non è affatto trascurabile, cioè si tagliano gli stipendi agli alti burocrati dello Stato, poi però ai city manager oppure ai dirigenti delle regioni. Sono dirigenti delle regioni che guadagnano quasi più degli altissimi dirigenti dello Stato, quindi pure lì bisogna forse fare qualche cosa, ma come? Perché c'è l'autonomia costituzionale, le regioni non si possono toccare, quindi dovrebbero essere loro che si autoriformano, e i comuni sono nelle condizioni analoghe. Poi le aziende comunali, per esempio, le municipalizzate, quelle sono fuori dal perimetro del tetto, insomma. Cioè, ci sono tutta una serie di problemi che rischiano di essere molto grossi. Sì, il problema è che il rischio è che con tutti questi problemi non si fa, no? Non si fa nulla. Sì, si fa non poco. Si fa nulla. Poi c'è anche una questione, secondo me c'è anche una questione di fondo. È giusto il tetto, ma così sì, probabilmente in linea di principio è giusto mettere una retribuzione, cioè stabilire un limite, però questo limite va stabilito in un modo intelligente, perché sennò alla fine si deresponsabilizzano anche le amministrazioni e poi non si interviene per esempio sulle retribuzioni magari più basse dei 295.000 euro, ma comunque eccessive e in ogni caso ingiustificate, perché ce ne sono tante. Ma intanto staremo a vedere in settimana come si evolverà questa vicenda. Ringrazio l'onorevole Zaccaria, vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali, e Sergio Rizzo del Corriere della Sera. Noi ci troviamo domattina alle 7:20.